grande fa l'occhiolino, vive nei cessi spesso e le ha prese tante. Ancora, dove fermano i treni? Parte un po' di vita, da dove fermano i treni? E proprio là dove fermano i treni, parte sempre un'altra varietà, ma parte sempre un nuovo varietà. Usato per letto e fischia la Carmen, è uno nervoso in sala d'aspetto, è lì da giorni senza biglietto, piange e dorme. Dove fermano i treni? Parte un po' di vita, da dove fermano i treni? E proprio là dove fermano i treni, parte sempre un altro varietà. Parte sempre un nuovo varietà. Ammiro un panorama di Cuba su una cartolina, poi si asciuga il bicchiere ed il naso e sospira. Un giubba sovinato, buono da buttare, suona sempre una vecchia canzone d'amore per un tipo con tante monete, qualcosa da ricordare. Una tipa che prima chiede se da fumare, poi